Una buonasera, Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia per 451 frammenti sonori, seconda trasmissione per quest'anno, come dicevo l'altra volta, scolastico tra 2015 e 2016. Chissà che magari insomma ci mettano i voti come ultimamente va di moda, insomma a fine anno, oppure magari ce li mettete proprio voi i voti, magari lo richiederemo, poi magari facciamo anche un po' come si fa ultimamente a scuola, magari qualcheduno insomma decide di dire questo non va bene, però insomma ci vuole una voce autorevole per dire che va bene o no, non va bene. E Max Macchia, vabbè, con queste note così, come dire, un po' stonate, ma mi piace, poi d'altronde da queste parti come dire c'è sempre un po' di rumore, di noise musicale, poi insomma il segno dei tempi, sign of the time, no? Come cantava quello lì qualche anno fa, sono presenti e di conseguenza insomma, come dire, le cappe che ci viviamo, poi non possiamo fare nulla per non riportarcela anche in radio, magari appunto canalizzarla attraverso quello che è un canale del tutto eccezionale come appunto quello della radiofonia, ma tant'è che insomma precarietà esistenziali e quant'altro insomma attraversi la vita, perlomeno insomma per quanto riguarda questo mucchio selvaggio, chiamiamolo così, di 451, quindi il sottoscritto, Max Macchia, Eliseo Scarpa e anche Lorenzo Albano, che non vuole essere mai citato, un po' l'imminenza grigia, ma anche chi gira intorno, così magari per sbaglio, intorno a 451, è dentro questo mucchio selvaggio, volente o nolente, insomma, e magari anche qualcuno di voi che sta ascoltando, che appunto si sente, come dire, anche lui dentro questa stramaledettissima cappa che vediamo di rompere insomma questa sera con musiche che tra automatismi psichici, quindi un po' ricordando le grandi avanguardie, le grandi sperimentazioni dei surrealisti, e tra macchine immaginative musicali in questo caso, ma non solo, visto che poi la musica come linguaggio, come segno, attraversa anche questa appunto la società, poi che si voglia staccare tante volte la faccenda rendendola quasi appunto opera d'arte a sé stante, ma l'opera d'arte hanno parlato per buona parte del Novecento, continuano a parlare, volenti o nolenti anche esse. E musiche che parlano appunto di immaginazioni, di spostamenti di senso rispetto anche al mondo del jazz, dell'elettronica, di quella che una volta probabilmente in ambito assolutamente postmoderno, anche se l'assolutamente col postmoderno non va bene, relativamente, ecco, bisognerebbe dire con il postmoderno, era la contaminazione di stili, il gioco che si faceva appunto attraverso la citazione e attraverso il mescolare, rimescolare appunto stili e forme. E qua invece siamo oltre insomma quel postmoderno, anche qua diventa quasi paradossale dire postmoderno, no? In effetti forse c'è una sorta di ritorno a quell'attitudine originale dell'avanguardia, che poi di fatto insomma qua 451, sia frammenti sonori che intersezioni, si segue da un po' di anni, perlomeno insomma l'unico modo forse per uscire vivi da questa situazione è ripetere, ma non ripetere pedissequamente, ma ripetere ripescando quell'attitudine, quell'atteggiamento appunto avanguardistico sperimentale che dentro Natural Information Society, in collaborazione con degli hippie che riprendono appunto proprio quell'attitudine, ma trasformandola dentro appunto il drone tonante dei nostri giorni, con appunto una immaginazione che li sposta avanti, un immaginifico che B.C. Bajan e Bajas con Natural Information Society portano nel loro Auto Imaginary, così si chiama la trasmissione questa sera, e l'assonanza che ci dava Automaginary ci ha portato appunto a chiamarla 451 proprio in questa maniera, tra l'altro album che andiamo a sentire, proprio Automaginary si chiama l'album di Natural Information Society insieme a Bichin Bajas. E quando si parla di soprattutto della prima formazione di Natural Information Society, che è un po' la ragione sociale di Automaginary, non si può non parlare di uno dei personaggi che appunto se Bichin Bajas riprendono quelle forme più sperimentali, quelle attitudini delle psichedelie, con invece Joshua Badram si va dentro il mondo dell'informale jazzistico, di quello che è stato aperto col free e poi è diventato la musica creativa, veramente allargando e anche creando quei ponti che di fatto sono stati costruiti e portano direttamente a giovani personaggi come appunto Joshua Abrams. Lui continua, come dire, una sorta di costruzione infinita che ci porta appunto lontano. Disco veramente eccezionale di questi ultimi tempi, se ancora la parola ha senso in termini di grande normalità. Ovviamente l'eccezionalità dovrebbe essere, insomma, magari qualcosa di un valore aggiunto, invece forse è qualcosa che si disperde, no? Nell'insieme di informazioni che abbiamo infinite. E però, insomma, di fatto rimane tale, ancora cercando, insomma, di creare appunto una verticalità, perdonatemi, insomma, se non parlo di orizzontalità stasera, ma è una verticalità che poi magari spiegheremo dopo nel corso della trasmissione. Avendo ancora questa insomma utopia verticale, quindi di qualificare le opere, non soltanto di quantificarle, questa è un'opera seriamente eccezionale. Automaginary, Natural Information Society, Bichin Bajas, appunto, per iniziare questo viaggio dentro appunto le immaginazioni sonore di 451 frammenti sonori. Thank you. E se con questo pezzo abbiamo ascoltato il lato dronante della faccenda di Natural Information Society e Bitchin' Banjas con Auto Imaginary, proprio il pezzo che dà il titolo al disco, invece andiamo a sentire probabilmente un jazz, appunto, che è stato immaginato tante volte, a volte anche fatto, ma che ci porta decisamente lontano nel futuro. Beh, il pezzo Automaginary veramente, e l'assonanza, le consonanze anzi che vengono espresse in questo pezzo sono veramente a dir poco eccezionali, tra una specie di drone country, jazz che si ispira in momenti incredibili di viaggi interstellari, appunto citando anche 451 intersezioni di Eliseo, e appunto questi viaggi interstellari di Sarra, e poi una specie di momento jazz che qua e là campeggia, ma astratto, e portandoci appunto in mondi assolutamente futuribili. Poi un'ispirazione e una voglia anche di essere decisamente comunicativi, anche quando si tratta appunto faccende così scabrose come le musiche sperimentali di questi giorni. D'altronde poi il connubio tra Natural Information Society, Joshua Abrams e Bitchin Bajas poteva essere assai rischioso, perché appunto magari l'uno più uno non dà due, spesso succede questa cosa, anzi c'è quasi una sorta di annullamento, altro che uno più uno, magari uno meno uno. Invece in questo caso succede in maniera assolutamente ispirata questo viaggio dentro l'immaginifico, dentro un suono che si fa oltre altrimenti, quasi sempre in tutti i solchi, se ascoltate il vinile, se invece ascoltate insomma l'MP3, anche appunto dentro il flusso delle informazioni troverete veramente tante informazioni, però sintetizzate, una sorta di dialettica musicale che è assolutamente rigorosissima dentro Natural Information Society, il progetto di Joshua Adams e anche di Bitchin Bajas, forse incanalato dentro quell'idea più avant di Joshua Adams per quanto riguarda i fricchettoni, ma mica tanto. Poi Bitchin Bajas, visto che poi riescono anche loro a essere rigorosi, ma è un rigore che appunto ci porta avanti, un rigore quasi futurista si potrebbe dire. E se con questi strane alchimie sonore abbiamo trattato jazz, drone, country, psichedelie, beh, con uno dei gruppi cult, e anche qua la parola veramente sembra quasi fuori luogo in questi giorni, ma quando si parla del gruppo australiano, delle meraviglie e sonore create in più di 20 anni, ovvero The Next, beh, non si può appunto che andare a trovare le vertigini, come d'altronde si chiama anche il loro ultima fatica, e anche qua appunto un rigore che da sempre portano avanti Next, un rigore però che non porta alla serietà, all'accademia, anzi tutt'altro. C'è anche molto, molto gioco spesso tra la filigrana delle opere di Nex, anche in questo vertigo che forse è forse un po' più malinconico, qualcuno potrebbe pensare, anche conoscendoli insomma, ha una sorta di maniera, ma se di maniera si tratta con Nex è una maniera che viene poi a sua volta assolutamente bistrattata nella ricerca sempre di quello spleen sonoro, è come se avessero The Next da più di 20 anni tra le testa e tra le corde, In the Silent Way di Miles Davis, però appunto anche qua attitudine sperimentale che però appunto diventa un'altra cosa, non si può in realtà poi copiare pedissequamente, non si riesce a fare questo, e quindi c'è un'esplosione di altro tipo, c'è uno spostamento che con The Next diventa qualcosa anche di assolutamente originale, quasi un paradosso, ma quando la dialettica appunto, il rigore di sperimentale di Next porta dentro minimalismo e jazz e psichedelie e veramente mondi anche che vanno a cercare un armonioso altro, beh, non ci si può appunto che andare verso le vertigini anche di quest'ultimo album, appunto, che si chiama Vertigo, con queste montagne esibite in copertina. E andiamo appunto a sentire un estratto da un lavoro che, come spesso accade con The Next, è piuttosto lungo, soprattutto come frammenti, se vogliamo considerarli tali, ancora dentro una logica, insomma, di frammentarietà che c'è e non c'è dentro Next, e soprattutto magari viene poi disciolta in un flusso liquido sonoro che appunto ci porta nelle grevette, quindi anche flussi che possono, insomma, anche ricordare il discioglimento poi delle nevi, e quindi queste sorta di flussi appunto che partono dall'alto per poi diventare dei fiumi in piena, sonori e meravigliosi, come spesso accade e forse sempre in The Next. Ci andiamo appunto ad ascoltare, ad assaporare.